Non c'è nessun altro che inizia un programma radiofonico così. Soltanto Edith. Mi trovo insieme a un gruppo straordinario, si chiamano gli Steps Ahead. Sono a Tokyo, è il 1986 e c'è, quasi mi commuovo a pensare a lui, ma comunque c'è Michael Brecker e c'è Mike Stern. E questo è un disco che praticamente si cercava come l'oro, questa registrazione fatta in Giappone con Mike Manieri al vibrafono, Mike Stern alla chitarra, Daryl Jones al basso e Stevie Smith. Qui c'è Michael Brecker che stava cominciando a presentare in giro per il mondo questo iwi, questo sassofono elettronico della Kai. Questo è lui che soffia in questa scatolina magica. Ben arrivati a tutti, e il brano che ho scelto è un pezzo di Duke Ellington, se non vado errato. In a sentimental mood. Magico, assolutamente magico, il grande Michael Brecker. Quando se ne andò fu una grandissima perdita per tutti noi appassionati di questo gruppo, ma poi anche noi qui a Roma siamo stati testimoni di un concerto pazzesco che fu fatto alla scalinata dell'Eur in cui venne con Mike Stern, con Jeff Dominic Calderazzo, un gruppo pazzesco. E questo disco degli Steps Ahead vedevo a Perugia quando c'era Umbria Jazz che gironzolava sulle bancarelle ed era considerato, addirittura a cassette, era considerato un disco, una registrazione ambita. Adesso è pazzesco, no? Si va sulle piattaforme e si trova questo disco che è praticamente introvabile. Da un certo punto di vista le cose sono migliorate. Come dicevo, ben arrivati su questa splendida radio. Accomodatevi, state tranquilli, accendetevi una sigaretta. C'è della musica che spero di aver messo insieme in maniera simpatica. Allora, cominciamo con... abbiamo cominciato naturalmente con gli Steps Ahead e adesso ce ne andiamo su una incisione dell'LCM alla quale dedicheremo senz'altro un programma di un'ora, perché questi dischi dell'LCM vanno assolutamente ascoltati, conosciuti e goduti. I nomi che fanno parte di questa incisione sono Ariel Anderson, Ralph Towner, Nana Vasconcelos. E sono già tre i musicisti che sono scomparsi. If You Look Far Enough è il titolo di questo album. Ralph Towner, Nana Vasconcelos e Ariel Anderson. Una incisione bella, pulita, meravigliosa, molto curata, e fa parte di quei lavori di questo grande ispiratore che è Manfred Eicher. Thank you. se pensate che la musica sia particolarmente speciale, e allora raccontatelo anche ai vostri amici. Questo è Jackie Me Too. Io invece sono Edith e questa è una delle radio più belle del mondo. Almeno per me è una radio talmente libera. E pensate che ancora nessuno lo sa. L'altro è un luogo estremamente accogliente per tutti coloro che sapevano fare la radio e non hanno più trovato lo spazio per farla. Perciò passate a trovarci con la vostra musica. E di sicuro troverete un posto speciale. Jackie Me Too. Siamo partiti andando con gli Steps Ahead da Tokyo. Li abbiamo così sorpresi mentre suonavano dal vivo e poi abbiamo fatto la conoscenza di questo curioso musicista che si chiama Jackie Me Too, che fa un reggae particolare suonato soprattutto sulle sue tastiere e crea queste atmosfere talmente piacevoli che penso anzi sono sicuro che tantissimi tenterò di mettere un altro brano. Magari potrei parlarvi di Jake Me Too, farvi sapere chi è, chi era. Ma io penso che al di là di una conduzione attenta e anche non troppo invadente, se riesco, mi piace parlare sulla musica, quindi devo stare molto attento. Alcune idee, alcune curiosità potreste anche risolverle da soli. Questo era Wall Street da Jake Me Too e adesso di nuovo un brano. Dalle inequivocabili sonorità reggae. Too Bad Bull. In quale ambiente state ascoltando questo tipo di sound? Dove vi trovate in questo istante? Questo mi incuriosisce molto. Magari lo state ballando e vi sto disturbando. Ce ne andiamo su un altro studio particolare, dove c'è una signora che sta incidendo un pezzo bellissimo. You taught me.

Mi piace molto questa idea del trombettista che mentre la cantante si esibisce, lui sta lì dietro che... Charlie Showers. Lei è molto contenta, evidentemente. Si sente che sorride. Oscar Peterson. Keeps raining all the time. Un'incisione del 1952, visto che siamo entrati in questo mondo, è meglio andare a sentire altre cose di questo suono qua. Vi dico soltanto che era un famoso cartone animato dove i pupazzetti sono gialli. When I was in knee pants, my mama done told me, son. Il mio personaggio, vabbè, io faccio il doppiatore, doveva cantare questa canzone. My mama done told me, a hooey de hooey, oh clickety clack, echoing back blues in the night. The evening breeze will start the trees to grind, and the moon will hide its light. When you get the blues in the night, take my word. The mockingbird will sing the saddest kind of song. He knows things are wrong, and he's right. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow, I've been in some big towns and heard me some big talk, but there's something I know. A woman's a two-faced, a worrisome thing who leave you to sing the blues in the night. Andai a casa e provai a fare una traduzione in italiano di questo pezzo per poterla poi cantare il giorno dopo in incisione. Lo trovate, voi che siete appassionati di questi pupazzetti gialli? Trovate il mio personaggio che non è giallo ma è nero e parla un così, una forma di veneto maccheronico. Cosa bellissima che mi sono subito ricordato che questo pezzo lo faceva Cap Calloway. Nessuno riusciva a capire che pezzo fosse, e invece per fortuna la mia conoscenza musicale mi ha guidato verso un brano bellissimo, Blues in the Night. Era l'orchestra di Artie Shaw. È l'orchestra di Artie Shaw. Thank you. Quante volte mi sono trovato a canticchiare questo brano senza sapere come si chiamasse. Come si dirà The Continental o The Continental? Io sono un grande appassionato delle orchestre, ma anche un grande appassionato di musicisti come quello che sta per arrivare, un grande compositore straordinario. Qui cerca di mescolare la sua invenzione, cioè la bossa nova, con un'orchestra e intanto semina suoni e ritmi. Anton Carlos Jobim. Musica di Anton Carlos Jobim, per chi non la conoscesse, la conoscerà. Nel senso che sì, ci sono moltissime canzoni che sono canzoni che poi a cui hanno messo le parole grandi come Vinicius de Moraes. Ma c'è stato anche un certo Carlos Santana, che ne ha fatto una bellissima versione di Stone Flower. Però noi continuiamo ad ascoltarla dall'autore che ne ha fatto una versione così orchestrale. Vediamo se riuscite a riconoscerla. Posso dirvi soltanto che l'album era Caravanserai. Stoneflower, una composizione di Anton Carlos Jobim. Questa è Samarkand Digital Network, io sono Edit. Restiamo attorno alle composizioni di Antonio Carlos Jobim e lo facciamo cantare assieme a un'altra grande, Elis Regina. La canzone è famosissima, anche in Italia ha avuto un grande successo. È pau, è pedra, è il fin do caminho, è o resto di toco, è un poco sozinho, è un caco di vidro, è a vida, è o sol, è a noite, è a morte, è o laço, è o anzol, è peroba do campo, è o nó da madeira, canga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo. Ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um corpo sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,

descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci. Nel frattempo la fama di questo musicista brasiliano è diventata mondiale, per cui in moltissimi volevano suonare le sue melodie. Tutti, Frank Sinatra, perfino un musicista, un sassofonista come Stan Getz, costruì un album dove c'era sia João Gilberto e sia la canzone è la stessa, è Corcovado, che abbiamo appena ascoltato da Elisa Regina e Antonio Carlos Jobim. L'autore è lo stesso. João Gilberto insieme a Astrud Gilberto. E al sassofono di Stan Getz. Qui c'è un taglio, si è sentito, perché queste sono le versioni per il 45 giri, che sono molto più corte rispetto a quelle che sono nel long playing. E quindi per voi sono anche più godibili. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Visto che ho trovato questa versione per 45 giri, ne ho trovata anche un'altra. Un'altra di una di un pezzo famosissimo, mondiale. Naturalmente cantata in inglese, Garota di Ipanema. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watched her so sadly. Straight ahead, not at him. piace gironzolare ancora intorno alla musica di questo grandissimo compositore. E allora sono andato a cercare un altro paio di brani, giusto per chiudere il cerchio, tornando ad una espressività orchestrale. Questo brano si chiama Agua de Beber. Questi brani fossero stati registrati in mono perché sento un'eccessiva separazione degli strumenti. Questa credo che fosse una cassetta addirittura che aveva comprato mio padre, che aveva nell'automobile. Questo per dire a tutti i genitori: lasciate della musica in giro, perché poi i bambini la ascoltano, la sentono e in qualche modo poi la ritrovano nel tempo, no? Sono dei semi che portano dei bei fiori, dei bei frutti. Bene, concludo questo giro brasileiro con un classico che conosco anche in altre versioni, anche molto più divertenti, ma in questo caso questo arrangiamento non mi dispiace. Si tratta sempre della musica di questo grande compositore, Antonio Carlos Jobim, e il brano si chiama Desafinado. Thank you. Non mi ero mai soffermato sul significato di desafinado. In realtà vuol dire stonato, fuori luogo, incoerente. Qui probabilmente di stonato non c'è mai stato nulla in tutte le versioni che io ho sentito, no? Forse qui c'è, in questo celebre brano appunto di Bossa Nova, magari c'è un gioco sul significato di non stonati, però è da, come dire, da approfondire. Ah? Guinevere had green eyes like yours, milady, like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained. Peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me? Guinevere drew pentagrams like yours, milady, like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all, on the wall. She shall be free. Her gaze down the slope to the harbor where I lay anchored for a day. Guinevere had golden hair like yours, milady, like yours. Streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. We shall be free. Splendido dipinto di David Crosby, Guinevere, dagli occhi verdi, che dipinge pentagrammi sul muro. Splendida canzone, qui era coadiuvato da quelli che all'epoca erano i suoi amici Stills, Nash e Young. Forse Young non c'era qui. Guinevere, Ginevra. E Guinevere, questo brano di David Crosby, chiaramente ha ispirato qualche altro musicista nel volerla risuonare, ricantare. Uno di questi è famosissimo, si chiama Herbie Mann. Ha fatto una versione leggermente più lenta, più pensata, ma è la stessa canzone di David Crosby. Guinevere. Herbie J. Solomon, detto Herbie Mann, famosissimo flautista. Abbiamo fatto veramente dei salti molto strani, interessanti in questo programma, che ancora ha un bel po' di strada da fare. È passata solo un'ora e un quarto quasi e abbiamo sentito una quantità di generi musicali. Abbiamo già fatto un viaggio enorme, chi per caso avesse la possibilità di ascoltare questo programma ad occhi chiusi, magari disteso sul suo divano con un bel impianto stereo attaccato alla nostra radio, beh, insomma, se fossi io quello, l'individuo, sarei molto felice di aver trovato una radio del genere. Oggi è molto più difficile trovare una radio così, però credo che persone come me ce ne siano tante che sono rimaste nel frattempo orfane di una possibilità come è quella della radio di poter ascoltare della musica e condividerla con altre persone, perché questa è la cosa più importante. Non è tanto la solitudine nell'ascolto quanto la sensazione o la certezza che a un appuntamento radiofonico ci si va in molti, come era Rai Stereo Notte, sia in tanti che si sta ascoltando in questo momento la musica, ed è questa la cosa che è quel filo mentale che in qualche modo, no, ci unisce e ci arricchisce e ci permette anche di dire: sto ascoltando un brano che non ho mai sentito, oppure non è il mio genere di musica, oppure non è proprio la musica che ascolterei di solito, ma però ti trovi magari dentro un'atmosfera particolare e poi c'è qualcuno, quel conduttore lì che in qualche modo riesce a mettere insieme gli ingredienti e a farti stare lì, a conoscere, ad ascoltare musica che magari non hai mai avuto la possibilità di scoprire. Guinevere, che era un brano di David Crosby, e adesso piano piano ci spostiamo di nuovo in altre latitudini, ma non così lontane, e però al cospetto di altri due grandi musicisti. Uno è Charlie Haden al contrabbasso e l'altro è di nuovo Michael Brecker. Charlie Haden al basso, Brad Meldau al piano, Brian Blade alla batteria, Michael Breaker probabilmente si è seduto in un angolo in attesa che questi altri ragazzi completino la registrazione di questo bellissimo brano, American Dreams. Con gli arrangiamenti in orchestra di Alan Broadbent, Vince Mendoza. E adesso passiamo a un carissimo musicista. Lui si chiama Buster Williams, aveva la sigla del mio programma qui, La stanza del nonno, su questa radio. E questo è il brano che io ho registrato personalmente a Perugia col mio registratore. E quella era una serata ai Giardini del Frontone. E mi sembra che il gruppo più o meno sia lo stesso, perché all'interno di questo abbiamo Herbie Hancock, Buster Williams al basso, Herbie Hancock al piano, I didn't know what time it was. Riconoscibilissimo Wayne Shorter al sax soprano. E uno che siede alla batteria quasi con il sedere per terra, Al Foster. E un orientale, Shunzo Ono. Thank you. con uno dei più grandi pianisti del mondo, Herbie Hancock. Allora, volendo cercare la musica di un pianista di cui mi ero fatto una cassetta un periodo per la macchina, o un CD, no, forse una cassetta, non mi ricordo bene, insomma. Questo pianista lo sentì in radio, naturalmente, e mi piacque subito, mi conquistò e io cercai della musica. Questo pianista si chiama Cyrus Chestnut, Castagna, Cyrus o Cyrus. Cercando la sua musica, mi sono imbattuto invece nel nostro James Senese. Perché questo? Perché Cyrus Chestnut Kest non è a terra mia. Album inciso nel 2025 e probabilmente l'ultima cosa che ha inciso prima di andarsene, e quindi mi è venuta la voglia di ascoltarlo, perché comunque James Senese fa parte un po' anche della mia vita musicale. Just a mama, yeah. Gotta get. Sono cresciuto in questa terra senza sapere chi era. Sono cresciuto con male o bene. Ci cresceva e ci voleva capire. I love supreme e I love supreme. Mamma supreme. I love supreme. Mi guardavo in due specchi che paura non mi farei. Siamo da sempre tutti contro tutti, E questo perché il male e il bene non possono convivere. Io lotto da quando sono nato. Questo non è la terra mia. A ciacalata capa non mi fa un riccio bene. Questo non è la terra mia. L'amore che è nato se ne chiude senza farmi capire chi sono. Questo non è la terra mia. A ciacalata capa mi fa un riccio bene. Chi sono? E chi sono? Chi sono? Chi sono? I love supreme. I love. E che sei supreme? I love supreme. Ha paura. I love. Usa anche supreme. Guardavo in due specchi, che paura non mi avrei. Mi guardava e mi guardava, ma non capivo chi era. Più cresceva e più soffriva. Questo non è la terra mia. Questo non è la terra mia. Se ne chiudo sogni, se ne chiudo mare, sta fornendo mondo, sta fornendo sogni, chi si? Sì, ti ha rubato sogni, ti ha rubato mare, chi si? Col treno se ne aiuta, mai se ne aiuta, o solo se ne aiuta, e o mare sta a niente. Chi si, chi si, chi si, chi si. I love supreme. L'ultimo messaggio di James Senese parla d'amore, parla di qualche cosa di più profondo, di intimo. Ed eccolo, Cyrus Chestnut. Ho voluto prendere un brano in cui è con Anita Baker e insieme eseguono un brano, anche questo famosissimo stasera, molti brani che abbiamo. Cantato tante volte. Fish are jumping and the cotton is high. Baby, don't you cry. Splendida quella di Anita Baker e un pianista che mi ha conquistato soltanto ascoltandolo per radio, Cyrus Chestnut. E adesso un ragazzo che, quando era un ragazzo, quindi qualche anno fa, mi disse: ciao, hey man, io ho fatto un disco nuovo. Con me hanno suonato Herbie Hancock, Michael Breaker. È il mio primo disco, l'ho appena inciso, compralo. Io lo stavo accompagnando con la mia Super 5 al suo albergo dopo un concerto. Non ricordo ancora quale concerto poteva essere, forse addirittura quello con Michael Breaker. O forse era venuto al Music Inn, non mi ricordo assolutamente in quale occasione sono riuscito a, così, a contattarlo. Abbiamo fatto amicizia e mi ha detto: accompagnami in albergo, ed è stata una cosa molto carina. E lui si chiama, adesso è diventato grande, ma si chiama Charnett Moffett. E ripercorrendo, andando a ritrovare il suo primissimo album, questo Net Man, inciso per la Blue Note, ho trovato un brano lungo in cui c'è una bella introduzione di basso suonato con l'archetto, di contrabbasso, e poi un ritmo particolarmente teso e bello con cui il brano prende piede. Lui è Charnett Moffett, il pezzo si chiama For You. Era il 1987 e da allora sono trascorsi molti fiumi sotto i ponti. Charnett Moffett. Thank you. Charnette Moffett, For You, e abbiamo sentito che di sicuro c'era Herbie Hancock a spingerlo nella produzione del suo primissimo album. C'è un album invece che è uscito da poco, dalle sonorità molto particolari. Lui si chiama Bird Meyer, naturalmente è una produzione e incisione per l'ECM di Manfred Eicher. Sia l'album che il brano che stiamo ascoltando si chiamano Magnetic, Bjorn Mayer. Thank you. Stavo considerando che in 2 ore alla musica possono accadere veramente tantissime cose. Pensate in queste quasi 2 ore quanta musica abbiamo ascoltato, quanti diversi generi. Poi c'è quello che ti apre il cuore, quello che ti porta lontano, quello che ti legge dentro. Eric Clapton, You've Changed. Since the day you told me your name, yes, you've changed. Your kisses don't feel the same. How you've changed. I romance to a crazy game. First you told me how you loved me, and I believe. Then you sold me on a vow that you never. Now you scold me, caring not how my heart grieves. Siamo stati molto bene. Io sono stato molto bene. È un programma che riascolterò ad occhi chiusi e con il quale io vi saluto. E vi aspetto per una prossima avventura. I'll still love you, even though